è ora di reagire. Segni permanenti, sfoghi senza voce, lividi costanti, ma grida per reagire. Pezzi di cervello si staccano per sempre, macchine viventi, panico costante. Voglio accontentarmi, ma non soffocare. Fermati a pensare, oggi tu puoi cambiare. Stop.